finita il mondo l'ultima volta. No. Sei deprecabile. Tu stavi lì con lo sguardo assente, sì, eri presente, pensavi fosse niente, invece la colpa era tua. Non ti fermare, non ti fermare, espandi. Non ti preoccupare, quel che conta è il giudizio finale. Qualcun altro le prenderà. Tu intanto predichi male, razzoli malissimo. Predichi male, razzoli malissimo. Il futuro non è più quello che una volta. Al passato non pensare, poi si vedrà. Fiducia nel consumismo. Prima o poi state certi vi ripagherà. Si sta così bene che ci facciamo i gavettoni con la benzina. E se ne resta poi si torna a casa, dove ho lasciato tutte le televisioni accese. Non è uno spreco se mi fa sentire meno solo, no? Ha ha.